Siediti accanto dove non siede nessuno più, dove in un vuoto ha seduto per anni l'assenza di te. Mi faccia ombra il tuo corpo, mi spinga il suo peso da un lato, mi manchi lo spazio dall'altro. L'ampiezza dei mari conosca una sponda, una terra d'approdo, e da te non mi stacchi risacca, di questa tempesta non resti che un filo, che un'alga.